c'avevo ma compra, lo c'avevo cosa, il giubbotto della Nike, quello non passa acqua nemmeno se ti ammazzi, e gli ho messo il cappuccio, quando faceva qualche goccia mettevo il cappuccio e andava bene così. Poi ero in prima fila appoggiato alle transenne, chi più bene di me. Come si dice, due gutteggi, dai. Oh, io prima ho trovato acqua lì alla zona di Macomeri, ma acqua mi che non si vedeva, stavo quasi per fermarmi qua. E dove eri di bello? Era una zona di mare, Villa Temius. Ah, è bella quella zona. Anche io ci sono stato. Ci sono ancora gli ombrelloni fatti di palma? Dipende dove. Noi eravamo lì al Notanga Village. Ah, ho capito. No, lo porto nella spiaggia, ci sono gli ombrelloni fatti con le foglie di palma. Sì, non lo so, lì non siamo arrivati. Abbiamo usato, diciamo, la spiaggia, quella del villaggio, dai. Che poi eravamo quasi sempre in piscina, che c'era appena appena di vento e si stava meglio in piscina. Ah, beh. E al mare ancora non è tempo. Sì, ma se i bambini già bagni, vabbè, i bambini non accendono il freddo, deve essere. I bambini no, perché non vedono l'ora di tuffarsi. Ok, mi detto, ma come cavolo fanno? Allora, ragazzi, non riusciamo a resistere a questa temperatura, boh. E loro sono piccoli, esili, magrolini. Vabbè, intanto già li vedi tremando anche a loro, però non mollano, Quando era a Sirmione, in albergo, noi avevamo praticamente la stanza che dava proprio sulla piscina, e c'era il prato all'inglese e poi c'era la piscina. E c'erano questi tedeschi che dalle 6:30 a 7:15 si facevano il bagno. Una cosa allucinante. Grazie, vediamo un po' se è diventato natalino. Eia, sono qui, mi ero spostato poco fa che stavo facendo un'operazione, se no la 50 mi tirava il matarello in testa oggi. Buon drugasco. Ciao Natalia, è vero, l'elmetto di Ribuni. Il matarello va di male. C'è propagazione sotto? Sì, un po' c'è, già si sente un po' di propagazione. Mi ero a fare a portare dal veterinario il cane, perché l'altro giorno mi ha fatto l'appuntamento, poi praticamente c'è stata un'urgenza e me l'ha rimandata oggi, capito? Sono andato per niente, solo oggi gliel'ho fatto il vaccino. Il vaccino ce l'ho ricoverato il gatto, ha avuto un blocco renale. Ah, vero? Adesso vediamo se domani ce lo... ci restituiscono, hanno fatto la rimozione del calcolo, antibiotici, speriamo bene, ma dice che è un bel irrequieto, giustamente lì non conosce nessuno, ci saranno altri animali, altri cani, cosa ne so, avrà paura il gatto. Dove l'avete portato? Io non c'ero, l'ha portato mio figlio in via Alghero, a pronto soccorso. Ah, ho capito. Sì, lì ho portato il pappagallo. C'è l'unica veterinaria aviaria che c'è, Roberta De Montis, è l'unica veterinaria aviaria che c'è a Sassari. Non lo so, io mia moglie sapeva l'esistenza, io neanche sapevo che ci fosse questo pronto soccorso per veterinaria, dai. Ma comunque, l'importante è che si salvi. Boh. Ma grande di età è? Sta iniziando gli acciacchi dopo i 7-8 anni, dovrebbe avere circa 7 anni e qualcosa, Più o meno l'età di peso, c'ho 8 anni peso, però Spazzardi è bellardillo, mi tocco ma è bellardillo, gioca, fa, salta, se lo fai correre corre più di te. Questo è un problema, te lo danno anche perché è stato sterilizzato, capito? È un problema che prima o poi subentra. Adesso altro che ci farà una scheda alimentare, quindi dovrà seguire una dieta, dai. Ho capito. Ma vabbè, anche il mio era stato sterilizzato, il gatto, grazie a Dio ha vissuto 19 anni. Ehi, ma quindi già ne ha ancora prospettiva, dai. Sì, non ti preoccupare, che la dieta, vabbè, lui ha avuto questo problema, ma lui mangiava, che dicono che faccia male, mangiava solo gourmet gold, non gli dovevi dare altro, solo gourmet gold e qualche crocchetta in mezzo, ma poche. e poi non mangiava nient'altro, capito? Mangiava solo pesce, non gli piaceva niente. Ed è campato così, a Gurma e Gold. Non so, anche lui un po' come si dice, è giriato, me. A volte certe, però che si è mangiato il Felix adesso, una cosa del genere, certe cose non le piace e non le tocca. Adesso speriamo che la roba che ci dà da mangiare, che dovrà mangiare, le piaccia, se no guai. Chi c'era di altro? Marco, avanti. Marco ha chiesto un po' di bianco. Natalino? Sì, prendi Natalino. Poi magari sta facendo roba, se no avrebbe ripreso. E niente, ma poi me l'ha visitato e mi ha detto che c'era un po' di cerume in un orecchio. Sicuramente ci ha preso un po' di otite. E mi ha dato queste voci da metterli, dai. Dai, niente di... Oh, qua si poteva anche lasciare le penne, ha detto, se non l'avessimo portato in tempo, perché c'era già la vescica dilatata, secondo loro, dai. Mi ha detto anche il tipo di calcolo che ha, la conformazione, ma non mi ricordo il tipo di sostanza. Non è di calcio, però, eh. Ah, no? Di che cos'è? Da che cos'è dovuto questo calcolo irrorale? Alimentazione. Però non era di calcio, un altro materiale che non ricordo. Mio figlio ha scritto tutto perché c'era lui, ha dovuto gestire lui la situazione. Se non ce l'avate voi, cioè se siete domani quando voi non ce l'avate, così? Sì, l'indomani che siamo partiti, dai. Meno male, dai. C'è la macchina tuo figlio? Sì. Vabbè, ho usato quella di mia moglie, la sua non l'ha neanche usata, perché era qui sotto casa, la piccolina. Ho capito, e vabbè, l'interessante è che sia indipendente, che se fosse stato a piedi sarebbe stato un bel casino. No, è andato in macchina, l'ha messo nel trasportino, poi era tutta notte che si lamentava, andava sempre nella lettiera e poi alla fine non faceva niente, era lo stimolo, sicuramente aveva tipo una cistite, lasciava delle goccioline in giro di colore rosa, quindi c'era del sangue già nelle urine. Vabbè, succede anche a noi, cosa si vuole fare, succede anche a noi, purtroppo è così. Ho avuto culi che io, a lui, lasciamo perdere, dai, interventi, e rendi sempre. Vabbè, dai, è passata anche questa, passerà anche a lui. Eccolo, infatti, pensate che c'è una cosa passeggera, e poi... tua moglie è molto affezionata ai gatti, vero? Sì, io la verità ero contrario a avere animali in casa, però ormai una volta che ce l'hai ti affezioni. Infatti hai detto, no, se dovesse andare male non prendiamone più, perché poi stai male, quando ti viene a mancare stai male, dai, è una sofferenza. Eccolo. Perché Marco ce l'ha due gatti, avanti Marco. Ecco, sono rientrato, Franco, sto utilizzando il 7009, CRT 7009, distanza diciamo sono due dita dal micro di taglio in modo da non sputazzarlo, adesso mi metto quattro dita dal mic frontale, 1, 2, 3, dimmi come ti sembra, 1, 2, 3, prova, e poi mi allontano ancora, così allontano tutto il braccio, stesso volume di parlata, però sarà 40 centimetri, 50, vedi un po', ecco qua, così da vicino, com'è? Quando ti avvicini si sente che aumenta la modulazione, non è amplificato, però si sente bene, è anche forte, ma questo è quel, diciamo, simile a quella foto che ti ho mandato io? Sì, è quello. Diciamo, l'anitone è quello originale, credo, da cui poi fanno tutte le altre copie. Questo è marcato CRT France, CRT, SS7009. Il microfono è di serie, è a condensatore e non è amplificato ovviamente, però vedi, magari ti allontani, che ne so, un palmo, lontano un palmo esce lo stesso, vedo i picchi di modulazione. Qua arrivate anche bene con sto Smith, tu sei 9.30 fra, per via della vicinanza, Gianni addirittura, secondo me, è anche un pochino aiutato, è 9.40. Sì, no, ti ascolto bene, la radio è buona, quando te la avvicini tipo a 4 cm è proprio forte, però ti ascolto bene anche da salotto, diciamo, quando la allontani a 30, 40, non ho nessun problema per ascoltarti. Marco, stai sbagliando, non sono aiutato per niente. Ah, ma diciamo che sono i watt dell'apparato, quello bello. Cappa. Vabbè, lì sono, aiutano, aiutano un po' come aiutano. Va bene, detto ciò, dai, sto facendo un po' di roba al computer. Comunque, fra, questo è come esce l'apparato, sono quelle tre dita, però di tre quarti, sempre al mic, in modo da non fare casino. Va bene, ripeto, i tasti di sotto non li hanno illuminati, però potevano fare, hanno fatto 30, potevano fare 31, vabbè, forse per qualche motivo tecnico non l'hanno potuto fare. Ok, riprendete. Sì, potete mettere dentro una tricetta LED, mi. È che ormai non lo vuoi aprire. Vabbè, questo gli avrò regolato la modulazione M, forse la deviazione FM anche, forse, non mi ricordo. Se lo vuoi sentire in FM e in SSB, poi me lo dici, magari anche Gianni passa. Ormai ci avrò io problemi in FM, anche questi sono tutti da centrare le bobine, eh. Eia, questi poi li puoi programmare anche con il computer. Col cavo apposito, diciamo, gli puoi mettere i canali come vuoi tu. Tu che ne so, vuoi la banda amatoriale, vuoi 10 metri con lo 0 finale, anziché il 5, metti lo 0 finale e poi lo puoi modificare andando di kilohertz in kilohertz, vabbè, quello è un'altra cosa. Che ne so, vuoi una banda riservata ai CB inglesi in FM e li puoi fare 40 canali inglesi già pronti all'uso per eventuali contatti di ex, così. Insomma, te lo personalizzi un po', dai. Tu adesso come ce l'hai? Normale? Da quanto vai? Come frequenza? Quanto copri? Allora, che io ricordi era 25 615, questo non ha i 12 metri, quindi 25 615 dovrebbe arrivare a 30.105. Io con questo arrivo a 28 e 300, mi sembra. Scendo fino ai 25, sì, però non sale così in alto di frequenza. Peccato, perché magari la banda amatoriale, per il suo ascolto nostro, va bene, no, se ce l'ha predisposta. Va bene, Gianni, riprendi. Gianni, ho Natalino. Sono qua, tutto per te. Ma non è che stai smorfendo per caso, no? Ma niente di no. No, negativo. Ancora è presto? Ci siamo quasi. Cosa abbiamo oggi? Roba buona? Sì, no, non te l'ho detto che tanto sono. Roba buona non mi posso mangiare. Una bella spremuta di limone. Gesù Cristo mio, Non è che il limone vuole mangiato intero per caso? Intero, buccia e tutto. A me lo fa la tappo. E allora? Vabbè, dai. Piano piano, quindi ho un po' di riso in bianco, roba così. E così ho fatto a mezzogiorno, ero guardo tutto il giorno andando e tornando dal bagno. È brutto. Una volta mi è successo al lavoro, avevo mangiato delle cotte crude. Cazzo, oh. Non ho lavorato quel giorno, no, non facevo in tempo a andare al lavoro che dovevo scappare. E devi mettere il televisore in bagno. Porca miseria, per un paio di cotte crude lì. A me una volta, a me e la mia ex moglie siamo andati a mangiare a Porto Torres in Piazza Garibaldi a mangiarci la pizza perché c'era un concerto e tu invece di tornare a casa mangiamo qua e stiamo qua direttamente. Ma la siamo in vatti, non ce l'abbiamo fatta a vedere il concerto, tutti due mal di pancia, ci siamo dovuti ritrovare con la pizzeria andare in bagno, non ce la facevamo più. Mamma mia che brutto, una volta mi preparo per andare in banca, arrivo lì al viadotto da casa mia, no? La bretella, cata, inizia questo rumore, rum, rum. Oh, inizia a sudare freddo, sono dovuto tornare indietro, già. Io lo grido, e tu lo turra, e ti fai la macchina marro. Porca miseria, ma brutto davvero, stavo sudando freddo. Sì, che sei in casa, che ti succede in casa è una cosa diversa, ma ti succede fuori, guarda, è un casino. A me una volta al lavoro, mi devo stare lo stesso sempre andando in bagno, e i miei colleghi, ma cosa fai, sempre in bagno così, cosa c'ho? Sono a diarrea, cosa devo fare? Vedi, vedi. Ti lavori di la vostra assaggiare a casa, ragazzi. Vieni a farmi compagnia. vabbè. Quando la macchina si inceppa. Purtroppo siamo andati in carri russi. Sì, sì, dai. Marco, ci sei? Marco! Yeah. Guarda come ti sta arrivando di segnale con questo apparecchio, il cambiato apparecchio. 9.40, però Gianni non va di più, non va più, no, più di 9.40 non va, anche Carlo arriva a 9.40, credo che sia proprio il limite, nonostante abbiano messo un fondo scala 9.60, ma non va oltre. Ho capito, dai. Sì, vabbè, già va bene, dai. Cioè, ti spiego, come smitter, come indicazione smitter, però per esempio se dovesse entrare Carlo magari a parlare assieme, ovviamente passa Carlo, però smitter di più non va. Va bene. Guarda quanto sono sceso adesso di segnale, Marco. 9. Così poco. Sì, 9. Bene o male quasi tutti gli apparati sono grosso modo così, a parte il presidente che è un po' più secco, li hanno tirato a 100 microvolt, quindi segniamo un Santiago in meno lui, presidente, il presidente in realtà. E io come arrivo io? È 9.20 tu dovresti essere. Allora io questo l'ho abbassato di potenza per pilotare, dai. Certo che c'è da 9 a 9.30, mi sembra quasi un abisso, quasi strano, è come che uno avesse un watt oppure 10 kilowatt, vabbè. Natalie, cosa vuoi ti dica? Siamo a 300 metri, sei fondo scala, che prove facciamo? Ma Franco c'ha 1000 watt sotto, 600. Guarda a vedere che sono con 2 watt adesso, Marco. 9.35, cala, quindi 2x4, 8, oddio, sì, cala di un Santiago. Facendo un calcolo, Marco, in dB, diciamo, da 9 a 9.30 in watt, quanto sarebbe? Sì, cacchio, 30 dB di guadagno sono un'infinità. Cioè, già per salire un punto S devi quadruplicare la potenza, anche se ci abbiamo un watt. Che dire? No, sarà più o meno, sapere quanto vero è quella bestia lì. Allora, a conti fatti dovrebbero essere 300. E può essere? Più o meno, perché 100 watt, da 9 mi facciamo andare a 9.10. 200, 9.20, 300, 9.40. Beh, più o meno la portata è quella, anche perché non lo sto pilotando col massimo della potenza, ma con una potenza di 4 watt, per uscire meglio del radio, capito? Sì, ho capito. È un po' ambigua la lettura però dello smitter, perché tu immagina 4 watt un Santiago, 4x4, 16, arrotoniamo a 15 per difetto e sono 2 Santiaghi, 15x4, 60 e sono 3 Santiaghi, 6x4, 24, 4 Santiaghi, però ne mancano l'appello 2. Cioè 2.40%, sarebbe un vantaggio spropositato, siccome lo smitter è viziato, capito? Sì, può essere anche quello, dai, non sono smitter affidabili. Vabbè, fra quanti batteri hai dato l'apparecchio al baracchino? Il baracchino adesso è 4 watt, l'ho abbassato a 4, perché questo esce con una decina di watt, però mi accorgevo che saturava, dava sì più watt, adesso sulla scala invece, adesso si ferma sui 400 la scala, invece prima saliva a 600 di picco, però mi interessa più che esca bene il radio. Fammi che non ti sciolga l'antenna. No, l'antenna regge, non so quanto, ma non l'ho mai vista in crisi, non scalda nemmeno. No, ma cosa ne hai messo? Cavo grosso dentro. No, l'antenna è fatta con l'RC58, poi la parte terminale è un cavo da, non so se sia da 2 mm, da 2 mm, e poi il condensatore e lo sub sono da l'RC213. Ho capito, deve essere abbastanza robusta. Ma io penso che fino a 500 non ci sono problemi, credo, e poi... Sì, diciamo che questo smitter già è generoso, allora, tanto più se ne hai 4, figurati, 4 watt, 15 watt, 60 watt, 240, e poi lì se moltiplichi per 4, siamo già fuori scala, dai, è un po' generoso, dai, molto. Vabbè, oh, si muove anche con la palina attaccata, la lancetta si muove appena appena, Oh, fra, se vogliamo essere così, allora c'è da preferire l'apparato secco che ti dà meno segnale, però ti rendi conto più delle distanze. Cioè, ti spiego, chi è molto vicino può arrivare a fondo scala, tipo Carlo, tipo magari anche Nattarino, però già, man mano che diventano più distanti le stazioni, dovresti renderti conto 9,20, 9,10 della distanza. E quindi lo smitter secco è preferibile se vuoi renderti conto della distanza dei segnali, perché se no con certi baracchini vedi 9.30, seguili a LED, 9.30 a tutti, tutta Sassari 9.30, e così non servono. Io cosa faccio? Uso un po' l'attenuatore, ce l'avrà lì quell'apparato che stiamo vedendo adesso, un attenuatore di segnale, sì. Deia, sì, RFG in alto a sinistra, assieme al power. Ah, aspetta che abbasso. Allora, se qua sono 13 watt, fa che siano 13. Adesso abbasso io, credo che siano 2. Aspetta, qual è? Questo. Ecco qua. Vediamo un po' senza modulare quant'è adesso. Sì, qua si è sceso leggermente. Ma poco? Ma tipo un Santiago o meno? Diciamo che prima eri sul più, adesso non arrivi al più, quindi io direi un Santiago. Sì, penso che siano, di solito gli mettono 2 watt potenza minima questi, meno non gliene danno. Aspetta, lo rimetto. Ecco qua. Poi i picchi, sì, se fischi forse ti dà quel mezzo watt in più, vero, il PEP non lo contare, quello è un imbroglio, il PEP in AM, perché sennò questi dichiarano 60 watt in AM di picco in AM, sì, come no, poi mi sveglio tutto sudato. Allora, come picchi ne hai più quando utilizzi la bassa potenza, si muove di più il lago, invece quando sei sulla massima potenza si muove leggermente di meno. Allora è comodo in questi regolabili, per esempio 3009, vabbè, si tiene a 4 watt, vabbè, però qua se per pilotare lineari ti li abbassi quanto vuoi tu, lo metti a 4, a 3, a 2, come vuoi, va bene. Bianco, per me che sempre sto controllando la situazione, riprendi, vediamo se c'è Nattarino ancora. Vai Nattarino. Ho iniziato a mangiare adesso, riso in bianco. Patate bollite, carote bollite, riso in bianco, senza condire. Questa è la ricetta del dottore. Lo sapete che anch'io mi dovrei limitare. Allora, l'altro ieri riso in brodo, diciamo, dai, come che fosse in bianco. E stamattina riso in bianco praticamente. Stasera c'ho un altro riso in bianco, roba mia particolare, che gli metto solo un pizzico di sale, un filettino d'olio d'oliva, proprio più in bianco non si può. Non metto nemmeno parmigiano, perché la pancia qua è un po' imbarazzante. All'inizio avete parlato in due, però. Non si è capito nulla. Natalino mi ha risposto, ma non ho capito esattamente. Pochi barauli, anch'io mi dovrei mettere un po' a dieta. Ne gioverebbe tutto, le analisi, fisico, anche la mente, penso. Un po' a tutti. Allora, lasciamo mangiare Natalino. Buona cena. Avanti Gianni. In realtà stamattina sono dovuto andare al centro diabetico perché non rispondevano al telefono, dovevo prendere l'appuntamento, stavo mangiando il telefono e non rispondeva nessuno, e ha avuto il coraggio di dirmi per una volta che ci provate state già piangendo, ma scusa se tu mi dai un orario devi chiamare dalle 8:30 alle 9, io chiamo a quell'ora e non mi rispondi, guardi che io ero a Genova, sono arrivato stamattina, cosa ne so che lì a Genova, però se lì da quell'orario io chiamo a quell'orario e non rispondete io mi preoccupo, perché ho visto che le analisi non sono molto belle. quelle e le volevo far vedere e prendere l'appuntamento. E vabbè, secondo me, ma devo avere pazienza, a casa sono stato dalle 11 sino all'una e mezza lì. Oi, oi, già me ne vado a San Camillo. Natale è un casino, eh. Oh, c'era un bel di gente. E dopo la prendeva, non prendeva in considerazione la mia richiesta, capito? Cioè, gliel'hanno detto due o tre volte di fermini. No, lasci lì che prima faccio i pazienti che ci sono, che devono visitarsi. Io poco fa mi chiamavo per prendere un appuntamento alle porte e mi dava sull'applicazione il primo disponibile il 9 di giugno, era impossibile, chiamavo al numero di telefono di questa qua, non rispondeva, alla fine dai andiamo, ci proviamo, sono andato lì, mi ha ricevuto dopo un po', perché c'era una persona prima di me, ho fatto quasi tutto, domani mattina, domani alle 2 devo ritornare, però per dire no, questa elettronica a volte neanche funziona, non riuscivo a prendere la linea e in più mi ha dato appuntamento addirittura per domani pomeriggio, cosa che al computer non mi dava. Non mi parlare delle poste perché è arrivata una raccomandata, io ero a casa, quello non ha manco suonato, ha messo l'avviso e si è andato. E praticamente sono andato alle poste, ma ci fossi andato perché era una raccomandata di una cartella esattoriale perché mi hanno sbagliato il 7.30, mi sono dovuto pagare anche questo cacchio di cartella esattoriale. Mi sembra me l'hai tolto giorno, ma fortunatamente non era tantissimo, per quanto mi ricordo. No, non era tanto, però sai, sempre ti dà fastidio che cioè, tu paghi per farti 7.30 e dopo ti ribagliare, ti ribagliare tu, gli sbagli loro. Oh, ohia. Io mi ricordo quando facevo il sindacato, c'era un'assicurazione, adesso me lo sta facendo un amico, quindi se sbaglia, non mi rapago. Ma non si prendono responsabilità, c'è anche scritto in piccolo, che non si prendono nessuna responsabilità. E vabbè, questo qui era dove lo facevo prima, sotto casa, ma era usciavato. Due li ho fatto e due mi hanno fatto pagare una barca di soldi, una volta 2.900 euro. Ed era giusto? Avevo superato il reddito, fra, è per quello che mi hanno fatto pagare, solo che loro, se sanno a casa che superi il reddito, perché te li danno prima da voi di ribigliare? Io cosa faccio? Non faccio mai, non metto mai figli o moglie in trazione, quello non faccio mai. Se poi mio figlio dovesse essere a carico, mi ritiro lo stipendio di agosto, luglio, insomma, più o meno. Come che hai una tredicesima, una quattordicesima, una quindicesima, non ti prendi in più, praticamente ti viene. Ah, io ho capito, sì. Io, vabbè, io già sono solo, però sempre sto facendo 7.30, mi sa che mi conviene fare qualche altro modello, a chilo che bisogna sempre pagare. Ma io anche quest'anno dovrei essere a rimborso, perché anche la signora lì, anche lì ha messo una tassazione, stanno facendo una tassazione alta, quindi quelli me li daranno nella mia busta paga perché ha messo il mio cioè, ha usato me per la discussione del 7.30, dai. Dice meglio che te li ritiri tu i soldi, che almeno sono sicuri. E ad agosto a me me li pagano. Sì, più o meno così. E durante l'anno magari sembra che prende meno degli altri, dice ma niente per di più, non ti preoccupare che poi a fine anno già fanno il conguaglio e ti ridanno quei soldi, sono in cassaforte diciamo. Infatti, sì, vabbè, qualche cosa già si può recuperare, ma devi pagare tutto col banco per recuperare, se no ho fatto delle visite, ho pagato i contanti e non me ne hanno pagato, 80 euro una visita e 90 l'altra. E come no? Tracciabile, no, non basta diciamo il codice fiscale quando gli dai la testa sanitaria, non va in automatico. Ah, non lo so, a me mi ha detto che quando non è pagato con il banco non li rimborsano. Questo non lo so, ma tutte le medicine per esempio adesso, prima facevo le fotocopie, no, degli scontrini e le allegavo, adesso ormai non c'è più bisogno, praticamente in automatico loro sanno cosa hai speso, cosa hai comprato, tutto sanno. No, io le porto sempre, si fa le fotocopie, se ne fa lui le fotocopie e poi le tiene lì. E ormai con il computer ormai non sbagliano più. Ah, li porto solo, forse le vedete bene che quelli le porto a parte, ma no. Oh, visto che si possono rimborsare anche quelle del veterinario, quindi però ormai ce le porterò il prossimo anno. Ma sai quanta gente c'è che non paga tasse, che non paga bollo, non paga televisore e non l'hanno mai agattati e fanno la vita così? C'è chi me lo fa fare per pagare le tasse, lui si va che pago le tasse. Per il bollo mi hanno raccontato una, praticamente se tu la macchina non la denunci al PRA non te ne verrà mai il bollo. E come fai a non denunciare al PRA? Non so, c'hai un tempo per fare la registrazione, no? Se non la fai dice non ti arriverà mai, se non sbaglio un mio ex collega, però poi l'hanno beccato dopo un po' di anni e al massimo ti possono far pagare gli ultimi 5 anni, dai, con le more, però è rimasto un po' di anni senza pagare. E poi va in prescrizione, magari non ne paga manco i suoi. Vabbè, avanti Marco, ti è rimasto Natalia la sta mangiando. Sono occupati. Sì, poi cuoci tu, gli fanno anche, come si dice? Ma ti abbonano tutto poi? Sì, infatti. Ma tu prescrizione non paghi nulla. Guarda, vanno più avanti le persone furbe che quelle oneste che pagano. Mi ha la frutta. E quindi no. Quelli che non pagano li fanno così, c'è il condono, grazie. E quelli che pagano vanno a guardare il puntino nell'uovo, grazie. Così è. Infatti bisogna stare molto attenti a queste cose qua, perché purtroppo c'è stato un errore di IRPEF, sicuramente non è nemmeno da quella che ha fatto il 730, magari ha sbagliato la ragioniera dove lavoravo io, perché l'IRPEF lo pagavano loro. Non lo so. Adesso addirittura ti mandano loro la cartella già pronta e tu la puoi accettare, se vedi che va bene. Ti dicono già, guarda, io ho fatto i calcoli, a te ti spetta questo e quest'altro. E tu puoi accettare la loro dichiarazione, dai. No, a me non mi sono mai arrivate queste cose. No, lo fanno chi si collega, no, al cassetto fiscale. Questo che mi fa 730 a me. Tu si collega, non so dove, con le sue coordinate. E ti dice il tuo 730 come andrà a finire. Poi se ti va bene, lo accetti. Se vedi invece che ti manca qualcosa, fai la tua dichiarazione, capito? Ho capito, puoi correggere, dai, senti un po' a correggere prima che ti mandino qualche, l'anno scorso, già 2 anni fa già me l'ho preso un Rai, 2.900 e passero, quasi 3.000 euro. È brutto mi restituire, cazzo, invece è meglio perderla durante l'anno e poi te li prendi, se ti aspettano te li prendi con 730, sono pazienza. Però almeno non te ne accorgi. Una cosa è perdere 100 euro al mese, una cosa è pagare poi tu 1.200 euro di colpo, o come te, più di 2.000, quant'era? 2.980 euro, mi pare quasi 3.000 euro. E come fai? Cioè, sono quasi 3 pensioni, 3 stipendi. E io glielo ho pagato in contanti, ma si può chiedere forse di pagarle a rate. Quello mentre le paghi subito, prima che gli arrivi la cartella, ma fatto pagare, gli pagati subito. E magari tu sei stato fortunato, c'è gente che non fa nulla, non c'è niente da parte, come fa? Poveracci. Sì, già ero disperato io, che ce l'avevo e tu ero disperato. Non solo due citi, no? No, una bella sussa, vabbè, purtroppo siamo in mani loro, cosa devi fare? Se non viene ammonite tutte queste società di recupero crediti. Chi è, Tonino? Carlo di Rogero, ciao, buonasera a tutti. Ciao Franco qua. Ciao Franco, ciao Gianni. Ciao Toni. Che bel tempo, ho visto la piove, sole piove. A marzo parimo. Quindi tutti a manetta siete oggi, eh? Bene, ti arrivo fra. E anche troppo. E adesso ho abbassato un po'. Abbassa. È più basso di questo dove vado, per terra. Di potenza lì. Sì. No. 4 watt. Per me è una grande così. Va bene così. 4 watt ma modulato. watt, capito? 4 o 4, non di più. Cazzo, sembra tipo in mano laterale, se lo smette si sbatte da una parte all'altra. Se mi già. No, per me va bene così, anche tu già puoi abbassare, Guarda, va bene, così bene va. Sì, sì, tanto già siamo vicini qua, dove mi spaccate le orecchie. Lo so. Io c'ho il cursore davanti e ogni tanto si muove, capito? Se no se lo porgo al massimo vai da 20, qua, 1, 2, 3, 4. Così è il minimo, è proprio al minimo, la prima tacchetta. Ah, va bene, puoi anche aumentare appena appena un pochino, ma non molto, Qua così. Ora? Bene, bene, così, proprio da salotto, come si suol dire. Vai Tony! Gamba di Rogero, lo smitter mio pare imbriaco, da la massa all'assa. Io troppo forti, sì. E sono al minimo lì, già. Ho lo sciure. Da 7,35 ma non parla a 9,20, boh. C'ha pigli positivi di modulazione, capito? 2-3 prove di modulazione. Metti la portante senza parlare. Ok. Vai. No, adesso hai aumentato. Poco fa invece partivi da... avevi meno watt all'inizio. Sì, capo, ho aumentato infatti. Quello del barocchino giustamente. Come ci arrivo a fare così? Qui sei 9 sul più del... 9,20 per mettere. Modulati 9,25. Ecco, mentre invece se faccio così ti va lo smettere tutto a conto suo. Così la radio è migliore, è meno fredda. E la radio è proprio amplificata. Sbatti da 3 mi sembra e vai a... Non è che me ne accorgo perché sbatte da una parte all'altra lo smettere. Però lo preferisco come modulazione. Ecco, sono moderato fatto, anche tu hai lo sciure. Sì, questo che sto usando. K, anch'io sto usando lo sciure in questo momento, sul Galaxy. Ma sicuramente è stato, un po' l'apparecchio un po' smanettato, il mio non è così forte. No, questo è originale, mai è stato aperto, è perfetto. Da quando mi è arrivato da Cagliari, No, non il microfono, l'apparato, magari c'hai la modulazione un po' aumentata, come si chiama, l'LC, No, sto dicendo proprio l'apparato, me l'aveva venduto un radioamatore di Cagliari. Ed era perfetto, mai aperto, me l'ha detto lui stesso. Magari è più forte di questo, come modulazione. No, c'ha dei picchi allucinanti. Anche tu hai il Galaxy. Questo è un Samurai. Siamo lì. Cappa, il mio baracchino che avevo preferito da tanto tempo, che non l'ho più trovato, non so neanche che fine abbia fatto. Quando ero a Pappatango. Anda a me. Riprendi già. Gianni. Quello si è dormito. Hai avuto qualche contrattempo. E di questi ne ho due, il Super Galaxy e il Samurai, però più o meno sono uguali. È che il Super Galaxy esce con 20 watt mi sembra, in AM 40 in banda laterale, questo usciva con 10 e 15-20 modulati, però l'ho abbassato per pilotare quella roba là, adesso l'ho abbassato a 4 watt, 4-5 watt, 4,5, dipende dal canale. Andiamo Gianni, se ne caso. Gianni. Comunque ci sono un bel truffatore in giro, fatto fare su internet. Di che genere? Allora, ho messo l'apparato in vendita, l'ho già venduto tra l'altro, e mi ha scritto questo, che mi manda il fattorino con la busta con i soldi, capito? E io poi il fattorino prende il mio paracolzolo e il pacchetto lo porto da lui. Poi successivamente lui mi chiede anche la carta di credito, il bancomat e i numeri. E questo ascolta, a fregare c'è sempre tempo, là ho finito quel paese. Fra, io sto andando, dai, che è arrivata gente, scusate, ma devo chiudere. Ehi, capa, ciao Gianni, buona serata, buon tutto. Avanti, Tonino. Ehi, capa, ciao Gianni, come poi ti ci sentiamo. Andare. capito? Veniva a me contattato una donna ieri, anziana, e poi questo imbecille qua, con gli occhiali, con la barba, l'ho segnalato su Facebook e l'ho bloccato. Sì, sì, quando molti cosa fanno invece? Una volta avevo chiesto per un camper, mi sembra. Però il camper ce l'ho in Corsica, manda tutti per portarlo in Sardegna, sì, sì, aspetta e spera. E cappa. Lei l'ha segnato come truffatore, capito? E quindi l'hanno bloccato. Anche la donna stessa. Ma si pensa a sé, tu diventi un rimocca e caglietica. Sì, sono profili falsi che creano, capito, per fare, per truffare. E cappa, senz'altro, poi non so come fanno a rubarmi i soldi della carta che non c'erano mai giù preso. Anche io nella carta proprio non c'ho niente. Io quando mi arriva tutto il resto dei soldi, pensione e cosa, ritiro tutto e lago solo 2-3 euro e blu. Ma lo sicuro, no? Ma non so neanche io come faccio, guarda. Sai che qui stanno sempre inventando, blu. Allora, c'è uno che sta fischiando per l'arrivo di Splatter, che era a fianco. Che c'è gente di Splatter? Qualche duro si è messo al canale fianco, 9 o 11, non lo so. Perché io dove sono, Splatter non riprendo, Però se lo si mette al canale fianco si sente poco poco. Eh beh, c'è un segnale, sì. Vediamo un po' chi c'è, non c'è nessuno. Natalino, ci si nascosto. Ancora mai niente, e tra poco devo andare anche a preparare qualcosa, blu. No, io oggi non è che mi sono dimenticato un po' fare il ketchup, porca miseria, quanto lo voglio, perché voglio fare gli hamburger, hai capito, patatine, dopo il ketchup. Vabbè, ma neanche maionese hai? Nulla, devo comprarlo, ho scritto nella lista e me ne sono anche dimenticato. 3 volte sono andato in negozio, 3 buchi. Ieri, stamattina e stasera, l'usavo, ho preso tutta l'altra roba e niente, e poi ho preso un pacco di trainer per il cane, le crocchettine e cose, il munch, praticamente al coniglio, però la roba per me l'ha servificato. E vabbè, vediamo, non le metto salsa se la mia luce. Ma se c'è qualche uova la maionese te la puoi creare a casa. Sì, uova, non so se c'è io. No, ho fatto la pasta carbonara, io dava. Non me la ricordo la ricetta, però quella la guardi su internet e te la trovi subito. Sì, non so come, deve stare sempre girando, solo che impazzisce. Ha giocato, se impazzisce la ricoveremo a manicomio. Si smonta, tipo la panna, come qualcosa, cosa, no, la besciamella, infatti, quello per fare tirarmi su. E cappa. No, vabbè, io vado faccio per il ketchup, capito? Quando ti fa un paninaro con le patatine e l'hamburger e poi il ketchup sopra, è la fine del mondo. E se vuoi mettere una foglia di lattuga, ancora meglio. Sì, anche io già mi piace la salsa, A volte anche salsa rosa, mischia un po' uno con l'altro. Le patatine è la morte sua. Vabbè, tanto. Avete attenzione prima di fare uno spezzatino con i fagioli, poi ho cambiato, devo fare mettere il brodo stasera, prima stamattina, poi stasera, devo venire mio fratello, e stamattina non poteva venire, stasera, idem, domani, forse neanche di mattina, viene domani sera e buonanotte, tutto da cambiare tutto, il programma. Sì, importante mangiare qualcosa poi. No, ma per quello, Franco, non c'è problema. Guarda, io ho un frigorifero sotto la veranda, un frigorifero grande dentro e più un pozzetto ed è pieno. E io invece l'ho eliminato il freezer, che una volta ci ho dovuto buttare tutto. Praticamente stavo staccando un abitatore dalla presa e non mi sono accorto, ho allentato la spina. L'indomani ho visto questo liquido rosa per terra e si stava scongelando tutto, ci ho buttato tutto, agnello, porcetto. Da quel giorno ho detto, boh, basta, ne ho uno piccolino qui, una cella piccola, giusto per ogni evenienza. Il resto, detto, no, l'ho portato alla mia madre, lì, lo sta usando mia madre per il congelatore lì. Cazzo, no, a me mi serve campagna, perché non posso sempre uscire a comprare questo con l'altro, no. Io ho un po' di tutto, tipo 4 sacchi di padella, poi spinaci, fate cubetti, surgelati, poi ho preso parecchia carne e ho tutto quanto messo nel pozzetto, insomma, come roba a mangiare non mi manca niente, provviste di pasta l'ho fatto, che poi pasta manco le cosinicci, qua, sono con la dieta. E quindi, cosa volevo dirti fra? Tu te ne intendi di gruppo elettrogeno? Ma cosa ti è successo, perché? No, io ne ho ordinato uno nuovo di zecca, mi è arrivato e col pacco qua aperto io stronzo l'ho ritirato, dovevo rifizzarlo, perché tra l'altro ho visto qualche piccola marcatura nel telaio, uno, mi manca il foglio di istruzioni, mi manca la batteria con i cavetti, la mazza di inesito, perché mette in moto che o tira a strappo con la cordicella oppure mette in moto con la chiavetta, la batteria ho dovuto comprarla, ma non so dove attaccare la batteria, l'ho smontato il pannello davanti ma non si comprende nulla. Ho capito. Da quanto è? Da quanti kilowatt è? 8 kilowatt e mezzo. Ehi, è grosso. Dove l'ho ordinato? Fuori, Milano. Ma nuovo? K. Ma non è molto grosso come struttura, È abbastanza, ma dicevo, 50 kg pesa. 3 prese da 220 industriale e una presa da 380. Silenziato. E poi cosa le posso dire? La benzina, l'ho preso 8 kW e mezzo perché 4 kW non mi bastano. E la marca? Che marca è? Una marca conosciuta o roba cinese? No, è una marca non conosciuta, io no, non la conosco la marca. C'è un nome strano, Hindenburg, tedesco. No, so, perché mio cugino una volta ne ha preso uno, ma era sicuramente cinese. E poi ho avuto un problema alla bobina, con i pezzi poi non si riescono a trovare. E comunque il motorino d'avviamento ce l'ha. Guarda, è tutto chiuso, l'ho aperto, ma non capisco un cavolo. No, non l'ho mai fatto, capito? Non so dove si attacca le cavette la batteria. Stavo pensando di smontare tutto il blocco dove c'è cosa la chiavetta e seguire dove va. Beh, sicuramente, se sei predisposto, se mi sono a portare il comando dalla chiavetta a portare alla batteria e poi dalla batteria va al motorino. Però ovviamente l'impianto è da fare, o sei già predisposto, devi per forza smontarlo, oppure trovare uno schema su internet, se lo trovi. Non l'ho trovato, chi che volete andare avanti? Io sono rientrato, sono già andato. Ecco. Bene, bene, ma io ho già fatto il lavoro che avevo, il cavo grosso proprio butilico doppio isolamento dal contatore a cancello sino a qua, da qui ho staccato il contatore da fuori dell'Enel, tagliato il cavo che entra dentro, sfilato, ho messo un solito differenziale da 25 A e l'ho infilato sotto la veranda, poi l'uscita l'ho fatta entrare dentro con una bella presa asciugo, una P30 maschio e femmina, quindi quello ho fatto, ho ricollegato automaticamente e ho la corrente in casa dell'Enel, quando non voglio più abbasso il manometro termico, sfido quelle prese lì e attacco il gruppo direttamente, il maschio con la femmina che è entro dentro e io ho la corrente del gruppo tutta la casa. Ecco, sei riuscito a mettere moto a trappo, sì? No, perché devo mettere l'olio, devo mettere ancora benzina, capito? Siccome sono molto incasinato in questo periodo, tu non ci credi, lagando solo in pensione, mi chiama in tutti i parenti, vieni qua, accompagnami là, vieni giù, fammi questo, fammi quell'altro, domani lo stesso mi accompagni lì a comprare cosa risparmio a casa, insomma sono incasinato. Piano piano, va con calma, te lo provvede. Dai, io devo preparare qualcosa qua per la cena. Ti lascio con Gianni. Vi saluto tutti, salutate il Marco, se rientra, e Natalino. Un abbraccio a tutti. Ti prendi Gianni con la buona serata. Ehi, allora, ciao fra, ci sentiamo, dai. Perché è successo parecchio che attacco, tanto per farvi girare tutti. E niente, dai. Penso che succedo bene anche con questo. Ti saluto e ti auguro una buona carica. Grazie per il consiglio, dai. Avanti tu. Ecco, ciao Franco. Grazie così, idem, come sopra. Buon carica batterie e alle prossime, quando vuoi entrare, noi siamo sempre qua, una certa ora, tutto qua. Bene, mira, avanti Gianni. Ehi, dai. Aspetta, secondo solo, mi riprendo. Ecco, mi ha stare tutto lavorando qua. Invece, quando sei in pensione, non è che ti riposino. Sarà faccia all'acqua. Oggi minimo ti va dito un chilo e mezzo. Pure andare a faccia all'acqua. Sì, non lo dirà, ma io sono andato al centro diabetico stamattina, te l'ho detto. Dalle 11 sino all'1:30 sono arrivato alle 2:10 a casa. Per prendere un appuntamento. Sì, guarda, io sono uscito stamattina alle 10:10:30. Te faccio un po' di spesa, ma poca roba che c'è tutto già. Niente, mi chiama mia comare, se puoi fare la cortesia, vieni a prendere tuo nipote, cioè vai a prendere tuo nipote che è all'università, su in via Zaffarino alla fine. E poi andate all'istituto d'arte Scaligioca, perché c'è Antonio, l'altro mio nipote, che praticamente si sente male, si fa uscire dalla scuola. E quindi, tra una cosa e l'altra, può andare in negozio, quello che lascio, già sono arrivato a casa alle 2. Torino, lo dovevamo dire che avevo pensione. Veramente, guarda, mi ero voluto travagliare, adesso mi prendono per altri 70 anni, no, ma fanno con te travagliare, fino a 70 anni, neanche ma fanno, sì, tutto l'anno, il prossimo anno, e boh, questo è i 6 mesi. Via, no capitale. Non è toccoso, ho detto capo, sono dalle 8:30 di mattina, le metto dalle 8:30 alle 9 e non ha risposto nessuno, era libero e non rispondeva. E lui mi ha detto, state già piangendo, ci provate una volta e poi venite a piangere qua. Ma sta scherzando, ho detto, dottor, non ci ho provato una volta, io sono tutta la mattina, fino alle 11 sono stato sempre telefonando. E niente, non mi rispondeva nessuno, o era occupato o non rispondeva. Alla fine sono andato io di persona, gli ho portato le analisi e l'infermiera mi ha preso le analisi e adesso gliele faccio vedere e gli dico quando può venire. E niente, gliele ha portate, le ha proprio snobbate, capito? Prima tutti i pazienti che hanno l'appuntamento, Puglia. Niente, io niente, mi ha dato l'appuntamento a settembre. Dice le analisi, come faccio le analisi? Non ci ricordo che sono tornato nel discorso io. E ha detto che analisi devo fare? Se lui non me lo scrive, mi hai dato il foglio sì, buonanotte, io ho fatto trasloco, eccetera, eccetera, non so ma che decidono Fuglio. Quindi mi ha rifatto il foglio, così mi faccio la fotocopia, sono fatte le solite analisi. Però mi ha dato l'appuntamento il 14 settembre. E quindi a voglia, devo fare 10 giorni prima. Sono andato a Tiesi a fare per la vista, ok, tutto perfetto. Non ci sono tracce di diabete, ho già, meglio così. E poi niente, devo fare l'elettrocardiogramma e quello ce l'ho questo mese, il 14. Domani mattina pure devo andare con mia figlia a Pagoda, perché si deve ordinare la torta, perché il 9 è il suo compleanno. Domenica devo andare in campagna Messonella, perché il suo compleanno e fa la festa anche lì. Insomma, Nagio, ricato riviene. Chiudi tutto. Vabbè. Localizzare. Sempre da fare c'è, sempre da fare, non si finisce mai. E ne fai più quando sei libero che quando, anche quando eri in ferie, a me facevano così. Visto che sei in ferie, non è che mi fa questa cortesia, e via. E uno, e due, e tre, alla fine scusi. E forse la fai più, non riesci a dire di no. Arrivi poi la sera che hai poca voglia di mangiare. Ti butti sul letto, ti guardi qualche minuto la televisione perché poi crolli, buonanotte e ti dormiti. Con tutte le cose che fai, poi il fisico non è risente, no? Quando lo stai sempre facendo, alla fine il fisico ti domanda un gol. Allora. Vabbè, volevo farmi un bel aspettativo ai fagioli, niente, allora mi faccio gli hamburger con le patatine, però cavolo, mi sono dimenticato il ketchup di comprare, porca miseria. Cosa ti sei dimenticato? Il ketchup. Basta uscire e prendere, c'è ancora il tempo. Non ne voglia, sto tutto il giorno in giro. Io non te lo posso lanciare, ce l'ho a casa, ma non te lo posso lanciare. Ti vuoi dire ragazzi, quelli vuoi. Qualche cosa si dimentica sempre, io mi faccio l'elenco, però qualche cosa me la dimentico sempre di scriverlo. Io l'elenco l'ho fatto, ma mi sono dimenticato di scriverlo proprio, quello è il problema, se no l'avrei comprato, porca miseria, vabbè. E poi le tre settimane, sono ancora buone, non ne ho toccato neanche una, le tocco e esita esita, mangio mele, quelle rosse, proprio rosso scuro, e grazie a Dio, ha preso anche le pescanucci, e sai che quella mele che tu vedi, lucide lucide, belle rosse, coso, e ne lavano con sostanze chimiche, non mangiare mai la buccia. Ma io veramente l'ho sempre tolta la buccia già, perché non mi piace, e si ferma nella gola. La buccia dovrebbe essere una cosa che contiene più vitamine e tutto quanto, però siccome le lavano con sostanze chimiche per farle lucide e cose, questo ho detto dai biologi, ho fatto un corso io di biologia dove lavoravo, ci facevano fare i corsi e questo biologo ci ha detto questa roba, con più rosse le vedete e più sostanze chimiche ci sono in me. Ma io l'ho sempre tolta la buccia già. La ragazza proprio sempre la buccia ho tolta, lo so che le vitamine sono nella buccia, però ripeto, no, a me mi si fermava la buccia alla gola, una volta la prima volta l'ho mangiata la mela con la buccia, allora da lì più basta, soltanto sbucciata. No, io già la mangio con la buccia, qualche mela la mangio con la buccia, ma di quelle che mi portano da campagna, capito? Vabbè, quelle sono diverse, gatta di Rogero, e vabbè, comunque, cosa volevo dirti, ah, poi mi piace molto il finocchio, quanto mi piace, gatta, sono sempre come vedete il finocchio. No, a me le donne. Ma non ti interessa la parola di verdura, mia, la matta di Nevaria. Non pensi altro tu, uia, già nel caldo. E beh, a te ti piacciono i pirucchi. Ma di verdura però, che poi fa bene, lo sai, ti sgoppia anche la pancia. Sì, i pirucchi sono un bel buio, anche a fatta insalata sono un bel buio. Cappa, io ci metto anche il sedano, ci metto tutto, la verga, poi il pomodoro, il cicciolo, la cipolla bella piatta che non pizzica, i fagioli in Spagna, forza, faccio una insalatona gigante. Chi cazzara? E cazzo se vuoi a maniatina? No, me ne faccio la divido in due che non la condisco una, capito? Quella che mi mangio la metto un po', è un cetolina piccolina, la condisco, l'altra la metto in frigo, la mangio la sera o domani. Io invece sto apprezzando i cavoli, prima non ne mangiavo, sto apprezzando i cavoli, mi sono piaciuti. Ho preso il cavolfiore, me l'ho fatto in salata, era così buono, e un altro me l'ho fatto la sfogata. Ma buoni con le olive, sono veramente buoni i cavoli, non mi ricordavo che erano così buoni e dolci come... Sono veramente buoni, fatte in salata con molto aceto, buono che buono. Sì, ma il cavolo col fiore, quando lo cucini, facevo fianco feo, c'era un metodo che non faceva odore, non mi ricordo se era l'aglio o cosa ci voleva la patata. L'aceto ci devi mettere, in mezzo all'acqua, quando bollisce gli metti l'aceto prima di farlo bollire e non fa più odore. Si dice quando bolle, non bollisce. E quando bolle, avanti, si dice bollisce, non bolle. E beh, tu mi ripeti quei finocchi. Comunque, in ogni caso, li metti l'aceto e va bene. Io questo giorno devo sapere l'antenna staccata già, perché con temporale, fumi e droni agito i cisti, non sa mai. No, io non ne ho staccato, non ne ho staccato. Ho visto che ti sta vedendo tutto. Io sto vedendo quello che ho preso da te, mi sto vendendo anche l'altro. Uno è già venduto, è quello radio, cioè è già spedito. Ah, già pagato? Sì, mi sono arrivati oggi verso l'una i soldi, 140 euro. Ah, va bene, così almeno te l'hai fatto fuori. E quello lì è un peccato, dalla quel pezzo lì, comunque si è fatto bene che te l'hai venduto, se ti dava problemi. No, problemi non me ne dava, problemi che non riuscivo a capire, era un casino. E due giorni fa mi ha mandato un messaggio a Pomponio, te lo riprendo io, e purtroppo l'ho già venduto. Ehi, l'ho visto che te l'aveva mandato, dalla me te lo ricompro io. Sì, l'ho visto che te l'aveva mandato. E vabbè, uno guarda la sua interesse, poi non c'ha bimbi, anche io devo comprare un apparecchio, glielo ho detto, ma è già venuto, già, mi dispiace. E lui giustamente gli ho detto, l'ho telefonato, mi ha detto no, dice, quando mi pagano il garage, l'affitto, allora te lo prendo. Purtroppo mi hanno mandato il messaggio questo a mi tempo la mattina, io l'ho letto la sera, mi ha anche chiamato, le ho fatto il numero di telefono e mi ha detto guarda porca miseria, mi piace troppo quello lì, te lo compro io, mi ha fatto il giorno stesso di venerdì, tu pensa, il bonifico con la banca col computer e mi è arrivato anche il coso. E praticamente poi oggi mi sono arrivati i soldi e comunque l'ho ritraffatto, guarda sono arrivati, io te lo sto spedendo il più veloce possibile, però ti arriva venerdì mattina. Le hai già spedito? Gatta. Vogliono bene. Perché bisogna essere onesti in queste cose, cioè c'è un po' di gente che va di manfrine, non ti fidi per quello, capito? Se uno è onesto prende i soldi e spedisce, non come